Il gioco scuoterò, e quel che non ho fatto al fine. contraste, comme si ça, et toi t'es là, et sous et tout, et si et non, pour questo basti, basti, basti, si, si, si, si. Ma che ti parla, voglio crepare, signor mio no, voglio crepare, signor mio no, sempre, sempre, sempre, con te si sta, e su, e giù, e qua, e là, pur questo basti, finir si può, e sì, e no, e sì, e qua, e là, e su, e giù, e sì, e no, e no, e sì, e sì, e no, per questo basti, basti, basti, finir si può, finir si può, finir si può. Ma che ti pare, ma che ti pare, voglio crepare, signor mio no, voglio crepare, signor mio no, signor mio no, signor mio no. Thank you. volando, troppo in alto voi volate. Gli occhi di Dio vi dico no, no, no, ed è un sogno questo, sì, sì, sì, sì, sì, ed è un sogno questo, sì. Thank you. certo che sì. Ma non so che dire, che dir non so, non so che dire, che dir non so, sono imbrogliato, imbrogliato, io già. Sento che poi mi dice, mi dice, non so che dire, sono imbrogliato.